It's time to listen to the dialogues again, from the moment when Sarah enters the pavilion to the end of the lunch in the Black Rooster. Allo stand di Italia Bella. Ciao Marina, siamo arrivati. Finalmente! Ma che è successo? Siete in ritardo. Sì, hai ragione, ma è una lunga storia. È colpa di Andrea. Cosa? Marina, è falso. Sì, come al solito. Ma... Marina, questa è la signorina Jenkins, Sara, della Top Qual. Salve, sono Marina, benvenuta. Grazie. Allora, avete ancora tempo per visitare il padiglione prima di pranzo? Sì, io accompagno Sara e tu, Andrea, rimani con Marina allo stand. Ma io... Ci vediamo qui all'una. Per il pranzo. Bene, a dopo. Vieni, Andrea, ho bisogno del tuo aiuto. Ma io...